tocca stare in fila per questo. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io gli può capitare che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo un amante vuol d'essere. Uccelli, che sento, a buon si geloso. Ancora meglio. Al conte farei subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ha ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi sen vada. Questo è l'unica strada dove Monsù sorpreso da una dama sia costretto a far poi quel che si brama. Chi di farlo c'è mai nel nostro caso, ma ne di persuaso è certo. Itto il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Rubino vi mando. Lascio a voi la cura di vestirlo. Noi! E